Det furlane, det furlane la mio, furlane la radio più bella del mondo. Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane qui a Udine. Stiamo trasmettendo sui 90 MHz e andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines. Retribution begins. Each day climbs a line for the half dozen lives. Eccoci qua dopo la sigla di questo programma che inizia ogni giovedì dalle ore 20, 20 e un quarto circa alle ore 21:30, diretta radiofonica come abbiamo già annunciato prima. E dopo questa sigla andiamo con la presentazione di questo album che è datato 2017. Loro sono gli scozzesi Oi Polloi, band storica negli ambienti dell'anarcho punk hardcore, E questo, come ho detto, il loro album 2017 che si chiama Unfinished Business. Loro sono gli Oi Polloi e ci ascoltiamo un paio di brani da questo loro album. The skins of tomorrow. into tomorrow. We're the skins. Skin into tomorrow. We're the skins. We're the skins. Skin into tomorrow. We're the skins. We're the skins. Carcere al mezzo, cronaca di un contagio annunciato. La sanità dentro il carcere sta diventando qualcosa di impercepibile. Nessun intervento di prevenzione è stato messo in atto all'inizio della seconda ondata di contagio, con un fatalismo esemplare. Mentre qui fuori stiamo assistendo all'inevitabile fallimento dello Stato e dei suoi tentacoli locali nel garantire la salute anche della popolazione più esposta e vulnerabile, con le catombe nelle strutture per anziani, parallelamente da dentro le carceri di questo paese stanno filtrando le notizie di un consapevole menefreghismo da parte degli apparati nell'interessarsi alla gestione del contagio. Le condizioni igienico-sanitarie delle carceri italiane le conosciamo bene e sono quelle di discariche, dove il materiale da smaltire sono le persone detenute. In questo quadro era impossibile impedire un contenimento del Covid. Per quanto riguarda il carcere di Tolmezzo, venerdì scorso è espirato un detenuto di 71 anni, condannato al 41 bis, il carcere tomba. Altri due detenuti tolmezzini risultano ricoverati a Verona e tre ancora ricoverati all'ospedale di Tolmezzo. Il picco dei contagiati è stato di 155 positivi su 200 detenuti, ma questo è un dato continuamente in aggiornamento. I detenuti usano le stesse docce, dormono in celle, spesso sovraffollate, e mantenere le distanze diventa impossibile. I colloqui sono sospesi da marzo, come tutte le attività. Il virus entra in prigione attraverso i secondini, che non si fanno scrupoli a lavorare senza rispetto delle norme igieniche fondamentali per la tutela propria e altrui. Una volta scoppiato il contagio, nessuna delle istituzioni implicate, direttrice del carcere, dirigenti del DAP, magistratura di sorveglianza, distretto e azienda sanitaria, mass media, si cura di svolgere il proprio compito, ma al contrario, ognuna si occupa di assecondare il muro di omertà a tutela del mantenimento proprio e dei propri privilegi. In altre parole, la verità del contagio non filtra fuori dal carcere, ma rimane isolata, murata dentro la galera. Se la verità non si racconta, muore, ma la verità vive se viene detta ed emerge con tutta la sua forza. Per tutto ciò, sabato 19 dicembre, a partire dalle ore 14, saremo a Tolmezzo, davanti al carcere in via Paluzza 77, assemblea permanente contro il carcere e la repressione. Ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics, in onda su Onde Furlane. E questo era il volantino di chiamata appunto di questa iniziativa, di questo presidio anticarcerario davanti al carcere di Tolmezzo. Questa iniziativa fa seguito a quella che si è svolta sabato scorso a Trieste davanti al Coroneo. Nella scorsa puntata di Zardins abbiamo parlato diffusamente della situazione sia di Trieste che di Tolmezzo. Vi ricordate anche chi era all'ascolto, abbiamo letto anche la lettera di un detenuto appunto al 41 bis positivo, che ha raccontato un po' come si sono svolte insomma le cose, come si è espanso il contagio all'interno del carcere di massima sicurezza. E, continuo dicendo un'altra iniziativa che ci sarà sempre questo fine settimana, ma domani, prima di sabato. Sempre un'iniziativa che ha a che fare comunque con le carceri e con la lotta anticarceraria. Si tratta di un comizio anarchico a Trieste a partire dalle ore 16, un comizio contro lo Stato e le sue stragi. Vi do lettura del volantino di chiamata. Contro lo Stato e le sue stragi, perché dovremmo fidarci di chi mente? Perché stragi come Piazza Fontana, Ustica, quella del Ponte Morandi, ThyssenKrupp, non evidenziano le atrocità dello Stato? Perché lo Stato fa pesare il suo operato sulla vita e sulla libertà di tutti gli sfruttati e le sfruttate, senza risolvere le questioni sociali? Perché lo Stato condanna come stragiste chi lotta per il cambiamento radicale della società, in quanto anarchici ed anarchiche crediamo si possa vivere senza lo Stato. Quindi, come nel, se vi ricordate la precedente chiamata del precedente comizio anarchico contro lo Stato, appunto, era molto semplice, lineare, diretta, senza tanti fronzoli. Anche in questo caso siamo di fronte a una chiamata di questo tipo, viva. E quindi ripeto, venerdì 18 dicembre a Trieste in via San Lazzaro, cioè dietro la chiesa di Sant'Antonio, a partire dalle ore 16. You see badass motherfucker? I'll show you badass! E intanto ci stiamo ascoltando in sottofondo questa band svedese che ha all'attivo solo due LP fatti all'inizio degli anni 2000, questo è datato 2007, loro sono gli End of All e questo è il loro album di esordio, Same Shit But Different, End of All. Demons by my side. Dunque, qua a Zardings Magnetics si diceva contro lo Stato e le sue stragi, e il riferimento era non solo alle stragi di Stato storiche, compresa quella di Piazza Fontana, appunto, che, di cui c'era la ricorrenza lo scorso sabato 12, ma nell'attualità, ad esempio, alla strage di detenuti, che ha fatto seguito alle rivolte dell'8-9 marzo del 2020. E ricordiamo almeno 14 prigionieri ammazzati, dei quali 9 solamente a Modena. E, questa strage di Stato è stata, diciamo, coperta con una versione istituzionale, e, beh, con il silenzio dei mezzi di comunicazione, e con una versione istituzionale invece che parlava di overdose, e, tanto è vero che durante un presidio abbiamo anche fatto uno striscione basta overdose di Stato, perché appunto le istituzioni carcerarie e non solo hanno spacciato questa strage dovuta alla repressione dei detenuti in rivolta con una overdose di massa, insomma, quindi di persone che avevano approfittato, diciamo, di questa situazione di rivolta per appropriarsi di sostanze psicotrope, e quindi che erano finiti così con l'overdose. Allora, tutta queste menzogne, questa mistificazione della realtà e anche l'omertà che ne è conseguita è stata rotta dalla volontà di 5 coraggiosi prigionieri che si trovavano l'8 marzo 2020 presso il carcere di Modena e che hanno vissuto, diciamo, la rivolta, che poi in seguito sono stati trasferiti al carcere di Ascoli, e qui in questo carcere hanno prodotto un esposto alla Procura della Repubblica, un esposto dove dettagliano tutto quello che è successo appunto durante la repressione della rivolta dell'8 marzo a Modena. E in seguito vi leggerò alcuni dei pezzi dell'esposto, perché appunto dice chiaramente le cose e non ha peli sulla lingua. E in seguito a questa loro presa di posizione, a questa loro denuncia, questi 5 prigionieri sono stati ritrasferiti a Modena, quindi un trasferimento punitivo e anche intimidatorio, e da quello che sappiamo anche da, ad esempio, poi insomma vi dirò un riferimento di un'altra trasmissione radiofonica su Radio Blackout, dove ha parlato appunto il fratello di uno di questi prigionieri. Le loro condizioni sono pessime, insomma, sono tenuti in uno stato di afflittivo particolarmente pesante e grave. Allora, questi 5 detenuti scrivono in questo esposto alla Procura della Repubblica: Beh, dicono che appunto si trovavano, che venivano tradotti presso la casa circondariale di Ascoli Piceno a seguito della rivolta scoppiata presso il carcere di Modena, e che tutti gli scriventi si sono trovati coinvolti, seppure in maniera passiva, nella rivolta scoppiata l'8 marzo. E a tale proposito, vi leggo, gli scriventi dichiarano di aver assistito ai metodi coercitivi e ad intervento messo in atto da parte degli agenti della Polizia Penitenziaria di Modena e successivamente di Bologna e Reggio Emilia, intervenuti come supporto, ossia l'avere sparato ripetutamente con le armi in dotazione anche ad altezza uomo, l'aver caricato detenuti in palese stato di alterazione psicofisica dovuta ad un presumibile abuso di farmaci, a colpi di manganellate al volto e al corpo, morti successivamente a causa delle lesioni e dei traumi subiti, ma le cui morti sono state attribuite dai mezzi di informazione all'abuso di metadone. Noi stessi, scriventi, siamo stati picchiati selvaggiamente e ripetutamente, dopo esserci consegnati spontaneamente agli agenti, dopo essere stati ammanettati e privati delle scarpe senza, e sottolineiamo, senza aver posto resistenza alcuna. Siamo stati oggetto di minacce, sputi, insulti e manganellate, un vero pestaggio di massa. Noi scriventi dichiariamo inoltre che dopo esserci consegnati, esserci fatti ammanettare, essere stati privati delle scarpe ed essere stati picchiati, fummo fatti salire, contrariamente a quanto scritto in seguito dagli agenti, senza aver posto resistenza sui mezzi della polizia penitenziaria, usando i manganelli. Picchiati durante il viaggio, fummo condotti presso il carcere di Ascoli Piceno. Al nostro arrivo, molti di noi furono spostati dai mezzi provenienti da Modena nei mezzi parcheggiati in uso alla penitenziaria di Ascoli Piceno. Uno alla volta e quasi tutti senza scarpe, fummo accompagnati prima in una stanza dove venimmo perquisiti e successivamente alla classica visita medica, dove a molti di noi non fu neanche chiesto di togliersi gli indumenti per constatare se avessimo lesioni corporee. Alcuni di noi furono picchiati dagli agenti di Bologna anche all'interno dell'istituto di Ascoli Piceno, nello specifico nei furgoni della polizia penitenziaria alla presenza degli agenti locali. E questo esposto alla procura da parte di questi 5 prigionieri che sono stati testimoni e anche vittime della repressione della rivolta scoppiata a Modena lo scorso 8 marzo, questo esposto continua così. Dichiariamo che la mattina seguente al nostro arrivo e nei giorni seguenti molti di noi furono picchiati con calci, pugni e manganellate all'interno delle celle all'opera di un vero e proprio comando di agenti della penitenziaria. Ricordiamo a questa procura che l'articolo 28 della Costituzione della Repubblica Italiana cita: i funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, degli atti compiuti in violazione dei diritti. L'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo sancisce che il divieto della tortura, ove nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Si veda anche l'articolo 608 del Codice Penale sull'abuso di autorità contro arrestati o detenuti, oltre a voler dipanare i fatti occorsi a Modena, poiché molti, noi compresi, siamo stati oggetto di sanzioni disciplinari infondate e immotivate, ove non è stata fornita prova alcuna, né a mezzo di supporti di videosorveglianza, filmati, né in altro modo volevamo, per una questione di giusta giustizia, in rispetto ai morti della rivolta, far luce sulle dinamiche, a nostro dire, obnubilate. Nello specifico vorremmo essere ascoltati per la morte del detenuto Piscitelli Salvatore, deceduto in data 9 marzo 2020, verso le 10:30, presso la casa circondariale di Ascoli Piceno. E qui appunto i detenuti, questi 5 coraggiosi, descrivono le condizioni in cui è morto Salvatore Piscitelli. Allora, il DAP ha sostenuto che era morto, che era arrivato morto ad Ascoli Piceno. Invece così non è stato. E addirittura anche il personale sanitario del carcere ha dichiarato la stessa cosa. E è una prova questa, ma anche quello che dicono prima i prigionieri, cioè il fatto che al loro arrivo a Ascoli Piceno non sono nemmeno stati visitati dal personale sanitario, Questa purtroppo è la prova che il personale sanitario all'interno delle strutture carcerarie è totalmente appiattito, totalmente succube o complice, a seconda delle situazioni, del personale penitenziario, cioè non svolge una funzione di tutela della salute dei detenuti, ma affianca diciamo pedissequamente quello che fanno fanno gli agenti di polizia penitenziaria. E arriviamo alla narrazione della morte di Salvatore Piscitelli. Dichiariamo che il detenuto Piscitelli Salvatore, già brutalmente picchiato presso la casa circondariale di Modena e durante la traduzione, arrivò presso la casa circondariale di Ascoli Piceno in evidente stato di alterazione da farmaci, tanto da non riuscire a camminare e da dover essere sorretto da altri detenuti. Una volta giunto alla sezione posta al secondo piano, lato sinistro, gli fu fatto il letto da un altro detenuto, poiché era visibile a chiunque la sua condizione di overdose da farmaci. Appoggiato sul letto della cella numero 52, gli fu messo come concellino un altro detenuto. Tutti ci chiedemmo come mai il dirigente sanitario o il medico che ci aveva visitato all'ingresso non ne avesse disposto l'immediato ricovero in ospedale. Tutti facemmo presente al commissario in sezione e agli agenti che il ragazzo non stava bene e necessitava di cure immediate. Non vi fu risposta alcuna. La mattina seguente, quella del 9 marzo, fu fatto nuovamente presente sia da parte di un detenuto che di un altro che Piscitelli non stava bene, emetteva dei versi lancinanti e doveva essere visitato nuovamente, ma nulla fu fatto. Verso le 9 del mattino furono nuovamente sollecitati gli agenti affinché chiamassero un medico. Qualcuno sentì un agente dire: «Fatelo morire». Verso le 10:20, dopo molteplici solleciti, furono avvisati gli agenti che Piscitelli Salvatore era nel letto freddo. Piscitelli era morto, il suo concellino fu fatto uscire dalla cella e ubicato in un'altra cella insieme ad un altro detenuto. Piscitelli fu sdraiato sul pavimento, giunta l'infermiera, la stessa voleva provare a fare un'iniezione al Piscitelli, ma fu fermata dal commissario, che le fece notare che il ragazzo era ormai morto. Messo in un lenzuolo, fu successivamente portato via. Successivamente abbiamo notato che molti agenti, il garante stesso dei detenuti, asserivano che il Piscitelli fosse morto in ospedale. Se questo dovesse essere vero, confermerebbe cosa assai grave, la presenza di atti e dichiarazioni false, costituenti falsi, in merito a quanto citato nel capo sub. Chiediamo di verificare l'eventuale ipotesi degli articoli citati in oggetto. Altri rapporti disciplinari sono stati fatti rilasciando deposizioni mendaci, come il rapporto ai danni di un detenuto accusato di essersi rivolto ad un'infermiera usando termini non consoni. A nulla sono servite le sue spiegazioni, volte a dimostrarne il contrario. Si è parlato molto della rivolta di Modena, ma nessuno si è interrogato su cosa fosse realmente accaduto. È inopinabile che vi siano stati dei disordini, ma nessuno di noi è stato interrogato o sentito come persona informata sui fatti, partecipe o altro. Tutto si è basato sulle sole dichiarazioni delle direzioni, che nulla hanno fatto per fare vera chiarezza. Le nostre dichiarazioni non sono state raccolte, sminuendo di fatto la nostra persona. Il sistema carcere è in evidente stato di crisi, vivendo condizioni di sovraffollamento e degrado in maniera tacita e accondiscendente, tende a sminuire e tollerare atteggiamenti violenti e repressivi ad opera di chi, indossando una divisa, dovrebbe rappresentare lo Stato. E quindi insomma continuano questi cinque detenuti che hanno deciso di fare questo esposto alla Procura della Repubblica sui fatti successi nello scorso marzo a Modena. E su questa vicenda, dicevo, consigliamo di ascoltare il podcast di una trasmissione che va in onda su Radio Blackout, che si chiama, la trasmissione si chiama Bello come una prigione che brucia. E è la puntata del 14 dicembre, quindi di questo lunedì. C'è questa interessante intervista a un fratello di uno di questi prigionieri, il quale insomma invita a diffondere, anche lui invita a diffondere il più possibile questa presa di posizione, questo atto di veramente di verità da parte di questi detenuti e invita appunto a, sì, a farsi carico di questa cosa, insomma, a non lasciare che questa cosa sia così rimanga un caso isolato. Se andate sul sito di Radio Blackout, appunto al podcast di questa trasmissione, lì c'è anche l'elenco di tutti i nomi e i cognomi e l'indirizzo. Io non sto a dare tutti i nomi così adesso, sì, per scrivere a queste persone, per scrivere appunto la nostra solidarietà. Mandi a tutte e tutti un benvenuto anche da parte mia. Stasera vorrei provare a continuare su quel sentiero che avevamo iniziato qualche puntata fa, quando abbiamo letto insieme l'articolo La parola e la cosa, a proposito di progetto rivoluzionario, e la volta scorsa quando abbiamo proseguito con la lettura di un altro intervento, Capitalismo e carattere, noto in margine a Reich, modo d'uso, di Jean-Pierre Voyer. Questa volta i riferimenti ai testi saranno un po' più vaghi e forse sarà un po' più impegnativo mantenere la barra e circoscrivere l'argomento. E comunque ci proveremo. Si diceva dunque di come il capitalismo e le discipline mediche concepiscano e abbiano bisogno di un corpo malato come un semplice contenitore, nonostante il fatto che il corpo rimanga una realtà primaria con la sua immediatezza, il capitalismo gli sovrappone una seconda natura, l'io. Il corpo, già espropriato delle sue capacità erotiche e creative, si vede così espropriato anche di usare le malattie come fase della sua difesa ed eventualmente della sua rigenerazione. Il corpo diventa così un semplice contenitore, in questo caso di virus, retrovirus, eccetera. Questo fa sì che vi sia una sorta di disprezzo del corpo, troppo alla mercé di altri e troppo poco, apparentemente, capace di espressione o addirittura di insurrezione. D'altra parte, la difesa della vita meramente biologica, in assenza di una vita globale sostituita dall'amministrazione sopravvivenziale, rende praticamente insopportabile anche la sola idea della morte. Avendo perso il senso del ciclo, avendo sovrapposto alla prima natura la seconda, il capitale, è al capitale stesso che si richiedono delle ipotetiche soluzioni. Ma di fronte a ciò la critica deve riproporre con sempre maggiore attualità la domanda cui prodest, a chi giova? Chi trae beneficio dall'immane accumulo di nocività alla quale tutte e tutti siamo esposti e esposte? Il dominio reale del capitale è dominio e appropriazione da parte del capitale della capacità umana di rapportarsi senza mediazioni in favore di un sistema di apparenze mercificate. Il dominio procede verso una semplificazione, reductio ad unum. Anche quando si tratta di comprendere la situazione nella quale ci si trova. A questa deriva la critica oppone il rifiuto antimoderno, che è già una tensione alla produzione di senso, mentre quello del capitale è un processo di desertificazione attraverso ipersfruttamento di alcuni territori, si pensi agli allevamenti intensivi, e attraverso la spoliazione di senso di altri territori, in questo caso si pensi alle migliaia di capannoni abbandonati in Veneto. Il corpo è diventato, in altre parole, il luogo dell'amministrazione. Per amministrazione non intendiamo solo le singole e specifiche amministrazioni, bensì il sogno utopico di amministrare una sorta di eterno presente, estendendo le forme dell'amministrazione in ogni piega della vita, collettiva e individuale. Esempi buffi. Se aumenta a dismisura il numero degli assicuratori è perché più nulla può venire in realtà assicurato. Se cresce freneticamente il numero dei vari professionisti è perché in effetti non esistono quasi più delle reali professioni. Se si gonfia quotidianamente il numero dei guardiani, in senso lato, è perché la società è obbligata a salvaguardarsi da qualsiasi rischio di trasformazione radicale. Questa amministrazione è riproduzione del nulla, ma non per questo è un nulla. È un'intera serie di attività che si sviluppa per realizzare valore anche in assenza di forza lavoro, senza che questo nulla abbia nessun legame comunitario con umanità passate o future. In altre parole, l'amministrazione vuole essere parte di noi tutto il tempo, come ha dichiarato un certo Eric Schmidt, consigliere di amministrazione di Google, Internet presto scomparirà, cioè diventerà impercettibile. Ma qu'est-ce qui va remplacer la philosophie? Qu'est-ce qui va créer des concepts? Alors on peut me dire, il faut plus créer de concepts. Ah bah oui, et la bêtise règne. Très bien, c'est les idiots qui, bon, ils veulent la peau de la philosophie, très bien. Mais qu'est-ce qui va créer des concepts? C'est l'informatique, c'est les publicitaires, ils emploient le mot concept. Très bien, et ben on aura les concepts de publicité, c'est le concept d'une marque de nouilles. Ça risque pas de faire beaucoup de rivalité avec la philosophie, parce que je crois pas que le mot concept soit employé de la même manière. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la publicité qui se présente comme la rivale directe de la philosophie, puisqu'ils nous disent, c'est nous qui inventons les concepts. Hein? Mais les concepts de l'informatique, les concepts des ordinateurs, ça fait plutôt rire ce qu'ils appellent un concept. Oui, faut pas s'en faire, ça. Est-ce qu'on peut dire que toi, Félix Foucault, vous formez des réseaux de concepts comme des réseaux de résistance, comme une machine de guerre contre une pensée dominante ou des lieux communs? Ça, c'est... Oui, pourquoi pas. Ce serait bien, si c'était vrai, ce serait très bien. En tout cas, le réseau est sûrement la seule... si on ne fait pas des écoles, et les écoles, ça ne me paraît pas très très bon, encore une fois, si on ne fait pas des écoles, il n'y a que le régime des réseaux, des complicités, des... bien sûr, ça a toujours été comme ça, d'ailleurs, à toutes les époques. Ce qu'on appelle le romantisme, par exemple, ce qu'on appelle le romantisme allemand ou le romantisme en général, c'est un réseau. Ce qu'on appelle le dadaïsme, c'est un réseau, oui. Alors qu'il y a des réseaux aujourd'hui, j'en suis sûr, oui. Réseau de résistance. Par là même. La fonction du réseau, c'est de résister, oui, et de créer, oui. Et toi, tu te sens, par exemple, célèbre et clandestin? Cette notion de clandestinité, tu y tiens un peu? Je ne tiens pas, je ne me sens pas célèbre. Je me sens pas clandestin, je voudrais en effet être imperceptible. Ça, c'est... Mais il y a beaucoup de gens qui voudraient, qui veulent être imperceptibles. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que je ne le sois pas. Mais être imperceptible, c'est bien parce que on peut. Oui, mais ça, c'est des questions alors presque personnelles. Moi, ce que je veux, c'est faire mon travail, c'est qu'on ne m'embête pas, qu'on ne me fasse pas perdre de temps. Oui. Et en même temps, voir des gens, parce que j'ai besoin, je suis comme tout le monde, j'aime les gens. J'aime un petit nombre de gens, j'aime les voir. Mais quand je les vois, je ne voudrais pas que ça fasse le moindre problème, quoi. Des rapports imperceptibles avec des gens imperceptibles, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, quoi. Je veux dire, on est tous des molécules, quoi. C'est une molécule de réseau, un réseau moléculaire, quoi, oui. We'll be right back. L'antagonismo tra il proletariato e la borghesia può soltanto portare a una rivoluzione totale. E finché le classi continueranno a esistere, l'ultima parola della scienza sociale sarà sempre, come ha detto George Sand, la lotta o la morte. La lotta sanguinosa o il nulla. Allora viva George Sand! E viva Marx! Bisogna lottare! Quelli che si rifiutano di lottare si alzino e lo dicano. Oggi la rivoluzione industriale ha creato lo schiavo moderno. Questo schiavo è il proletariato. Se libererà se stesso, sarà libero tutto il genere umano. E questa liberazione ha un nome. Comunismo. Ed è questa la ragione per la quale propongo di abolire quel motto, perché è debole e fuorviante. Questo è un colpo di stato. Eccolo qui, il nostro motto. Proletari di tutti i paesi, unitevi! Io richiedo che la Lega dei Giusti da questo momento sia chiamata la Lega dei Comunisti. Alzate la mano, chi è a favore? E ora voti chi è contro. A partire da ora, il nostro nome sarà la Lega dei Comunisti! La Lega dei Comunisti! Dunque, abbiamo detto che di fronte alle speculazioni della scienza, che vorrebbe rendere gli individui e i loro corpi interscambiabili, la critica deve opporsi a questa utopia del capitale rovesciando il tavolo. Con questo si intende che la critica deve riconoscere e individuare tutti i dispositivi dello spettacolo, ma soprattutto quelli che hanno una tendenza reinglobativa, la cui attrazione implica la trasformazione compatibile dello stato di cose. Sono i dispositivi più insidiosi e, come detto, vanno individuati e minati. La critica è sintagmatica, consiste di eventi, e invece la scienza si riferisce a stati di cose, è paradigmatica. Per questo va messo in atto un necessario spariglio dei sintagmi comunicativi per individuare e rovesciare i dispositivi reinglobativi del dominio spettacolare. In conclusione, scienza e critica si differenziano soprattutto per i loro diversi modi di enunciazione, ma in tutte e due le discipline si tratta pur sempre di un modo di vedere ciò che succede e soprattutto di prevedere i risultati in base a ciò che ancora non si sa. Dato il numero X che possiamo supporre maggiore di 1, la successione delle sue potenze forma una progressione geometrica. Agli esami le domande vengono sempre poste in maniera contorta. Sembra quasi che gli esaminatori abbiano paura di farsi capire da quelli che interrogano. E la colpa? Per conoscerla bisognerebbe domandarla agli editori dei signori esaminatori, che desiderano volumi sempre più ampi, e così ogni anno appaiono queste immense pubblicazioni. L'allievo quindi si preoccupa unicamente di sostenere l'esame, senza badare minimamente ad imparare qualcosa. Su ogni teoria lo studente ha bisogno di lunghe ripetizioni, si deve informare dei metodi che gli esaminatori prediligono e deve sapere perfino quale deve essere il suo contegno. La cambi mestiere, la matematica non fa per lei. Chiarezza, rigore, rigore, chiarezza! La verità è che è stata fondata una nuova scienza, che consiste nella conoscenza delle antipatie e simpatie scientifiche, delle manie e del temperamento dei signori esaminatori. Bene, questa sera abbiamo fatto delle considerazioni a partire da vari testi di Riccardo d'Este risalenti ai primi anni 90. La malattia come espressione delle fasi di civiltà, proibizionismo come frutto delle speculazioni della scienza e delle espropriazioni di senso, qualcosa, ipotesi sulla società neomoderna. Per questa sera mi pare tutto. Un saluto e alla prossima volta. Mentre sta finendo questo brano dei Kalashnikov, band di Milano, dal loro, da un loro album datato 2010, volevo solo dire che prima tra i due spezzoni di intervento abbiamo ascoltato una band francese di Strasburgo, i Geranium, dal loro 12 pollici split assieme ad una band belga, il Link, comunque album datato 2017, e rimaniamo ancora all'ascolto dei milanesi Kalashnikov. Sì, e dopo l'interessante contributo su corpo, capitale e malattia. E ritorniamo in diretta, siamo sempre su Zardins Magnetics, Radio Onde Furlane. Beh, manca poco alla fine della trasmissione per stasera, allora vi ricordo le iniziative che ci saranno nei prossimi giorni. Allora, domani, venerdì 18 dicembre, a Trieste, in via San Lazzaro, cioè dietro la chiesa di Sant'Antonio, ci sarà un comizio anarchico contro lo Stato e le sue stragi, a partire dalle ore 16. Si rimarrà lì, c'è anche una mostra che così parla appunto delle varie stragi di Stato di quest'ultimo anno. E sabato 19 dicembre invece, questa volta a Tolmezzo, davanti al carcere di massima sicurezza, ci sarà un presidio solidale, in solidarietà appunto con i prigionieri di quel carcere e comunque non solo di quel carcere. E, a partire dalle ore 14. Queste sono le due così prossime iniziative. E, allora, io vi ricordo anche i nostri contatti, se avete voglia di avere così di avere degli scambi. Allora, la mail liberetutti@autistiche.org, oppure per scrivere in forma tradizionale, cartacea, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34 121 Trieste Centro. E questa, appunto, questo indirizzo di casella postale è particolarmente utile se ci sono delle persone private della libertà che sono appunto che non sono non hanno la possibilità quindi di usare la posta elettronica, di usare internet e quindi anche di scrivere all'indirizzo di posta elettronica. Ecco, quindi se ci sono appunto persone che riescono ad ascoltare la trasmissione anche da luoghi di detenzione, o comunque persone che conoscono persone detenute che potrebbero aver voglia di avere contatti con noi, ripeto l'indirizzo della casella postale: Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34 121 Trieste Centro. Bene, allora per questa sera io finisco qui, e ancora un po' di musica e niente, ci risentiamo la prossima volta. Ciao a tutte e a tutti. We'll be right back. people of the country have forgotten how to disagree. The national economy is said to be okay. The wages that you get will help you to forget. Will you keep your ideologies or throw them all away when the system has you beaten? Even now you haven't eaten because you can't afford to eat or drink to keep your brain alive. Blame the system for the weather. Carry on as ever. You go to work at Upper State and come back home at five. Talking about the human race, how they got them out in space, but it never stopped the wars. The whole of this humanity is based on greed and vanity. The ones who make decisions are the ones who make the laws. But you're still in this society, so what should make priority? Remain in the majority, you never really cared. Or cultivate the hate to annihilate the state. Are you prepared to die for your beliefs or just to die your air? You exist to a population who insist you're just a bunch of fakes. You cannot change the system till you change your own restrictions. Communication and conviction gotta kick until it breaks. Eccoci alla fine di questo programma che è Zardins Magnetics. Vi ricordo che ogni giovedì siamo in diretta radiofonica dalle ore 20 alle ore 21:30, ore 20:15, comunque fino alle 21:30 qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Bene, quindi ci sentiamo, credo, probabilmente il prossimo giovedì, non siamo ancora certi su questa cosa per le questioni delle festività, e noi stiamo ascoltando ora i Subhumans da questa loro compilation datata 1990 che si chiama Time Flies But Aeroplanes Crash. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.